Benvenuti a tutti gli ascoltatori e a tutte le ascoltatrici di Radio Onda Rossa. Questa è Tracce di Cinema. Ricominciamo dopo una lunghissima pausa dovuta a cause di forza maggiore. Come va? Bene, bene, tu? Mi piace molto questo microfono giraffa che incombe su di te. Sì, che incombe su di me. Bene, allora oggi ricominciamo. Benvenuti e benvenute. E il film di oggi, 2014, uno dei migliori film di quell'anno, secondo me, quasi un capolavoro, un'opera fatta di dolcezza e disperazione, una produzione franco-canadese, un film che è stato presentato al 67esimo concorso alla 77esima edizione del Festival di Cannes e ha vinto il premio della giuria ex aequo con Jean-Luc Godard. È l'opera appunto di cui parliamo, è stata diretta da Xavier Dolan ed è Mommy, un film bellissimo, come vi dicevo, secondo me un quasi capolavoro. Pensa, Federico, che è il primo film di questo regista ad aver avuto una distribuzione in Italia. Gli altri prima di questo non erano mai stati distribuiti. E chissà chi è stato la distribuzione, forse quel genio di De Paulis, vero? Potrebbe essere, non mi ricordo, sai. No? Vabbè, e, insomma, questo è un film veramente magico, tutt'altro che banale la storia che invece poteva essere, nel senso che il tema di cui tratta è quello del rapporto madre-figlio, tema di cui il cinema ha abusato in tutti i modi, ne sono stati fatti film drammatici, ammiccanti, banali, e il film di oggi non è tra questi. E Dolan racconta questa storia che è tutt'altro che banale e è ispirato dalla realtà, ma non è una storia che veramente è accaduta, quindi ha qualcosa di reale ma non è reale, ed è un film molto sociale, secondo me, Fede, perché potrebbe essere un film alla Ken Loach, diciamo, perché racconta di questo ragazzo che ha delle difficoltà, un deficit di attenzione, insomma è malato di bipolarismo, bipolarità anzi, e ha disturbi della personalità, e quindi viene preso in cura dalla madre, perché è uscita una nuova legge, e questa è l'espediente che lui ha utilizzato per poi la narrazione del film. Questa legge è 14 che appunto il regista ha inventato come artificio per il film, e dice che un parente di un minore con problemi psichici poteva, saltando le procedure legali, può rinchiuderlo in caso di necessità in un istituto, ed è quello che succede poi nel nostro film. Ecco, pensavo a un film sociale perché insomma le vittime di malattie psicologiche e mentali di cui Steve, il protagonista di questo film, soffre, vengono spesso abbandonate a se stesse, non solo loro ma anche le famiglie, e se non fosse per il fatto che vengono semplicemente farmacologizzati, non mi viene la parola, vengono soltanto insomma curati in modo farmacologico, e quindi spesso vengono anche ospedalizzati come in passato, e probabilmente chissà, l'ospedalizzazione obbligata, come adesso è stata sollevata insomma dal peso di molte persone che sono malate in questo modo, potrebbe diventare di nuovo una consuetudine. Una consuetudine, sì, grazie. Quindi insomma un film sociale, la colonna sonora, ecco, sì, questo è il punto. Stavo tergiversando perché non ci volevo arrivare, non ero convinta fino alla fine, vero Fede? Sì. Però il film è talmente bello che anche se la colonna sonora è molto cafona non ha importanza, perché poi io adesso vi spiego perché pochi registi secondo me si assumono il complicato compito di scegliere le canzoni da utilizzare in un film, no? Pochi riescono poi andare oltre il semplice compito di metterle là, no? Di usare le musiche come un sottofondo o metterle in modo più accattivante possibile, e spesso sono anche fuori contesto, sono anche insomma non c'entrano nulla, ecco. C'è invece chissà con bravura e talento mettere insieme musica e immagini in modo che sia un uno tutto, e questo è il caso di Xavier Dolan, che lo fa con grande bravura e talento. Appunto, la colonna sonora di un film spesso è qualcosa di sottovalutato, anche i critici insomma molto spesso insomma dicono che non sia una cosa importante, invece a mio avviso lo è tantissimo, e qui è molto criticabile perché è veramente cafona, come dicevo prima, invadente, iperpop, e sono 11, poco più di 10 tracce, 11 tracce di cui 3 proprio non ve le mettiamo perché non esageriamo, non esageriamo. Bocelli no, da queste frequenze Bocelli no, e perché c'è anche lui, e sono poco più di 10-11 tracce, tutte sputtanatissime, ma che hanno segnato gli anni 90. Parliamo di Craig Armstrong, di Doe, Counting Crows, Lana Del Rey, Oasis, e poi si avvale anche di composizioni più nobili, no Federico? Sì, no, Ludovico Einaudi, è un miscuglio, e Edoardo Noia, insomma. Se non vi piacciono le colonne sonore, le sonorità cafone, potete cambiare radio. Thank you. fino all'ultima nota. Ludovico Einaudi con Experience. Ludovico Einaudi, che non è la prima volta che ospitiamo nelle nostre trasmissioni, ed è un autore apprezzato anche in film internazionali, quindi ha un ha un campo piuttosto allargato di fruizione. Per quanto riguarda il film, ti aggiungo, anzi sono andato a recuperare, la distribuzione italiana è stata grazie a Good Films, e ti aggiungo anche che uno, secondo me, per come l'ho vissuto io, uno degli elementi di valore del film è proprio nell'interpretazione maschile del protagonista. Sì, sì, è un ragazzo giovanissimo, veramente molto forte, che è stato anche poi protagonista di uno di un video musicale di cui il nostro Dolan ha curato la regia, un video per, mi pare, degli Indochine, un gruppo musicale forse proprio canadese, non so. E, Ludovico Einaudi, sì, Fede, quotatissimo nel cinema lui, le sue musiche vengono spesso utilizzate ed è anche lui autore di molte colonne sonore cinematografiche, quindi insomma sì, l'abbiamo ospitato, magari averlo ospitato anche di persona sarebbe stato più bello, invece pare che sia molto schivo lui, non ami apparire mai se non dietro a qualche strumento musicale. Questo disco, che si chiama si intitola In a Time Lapse, è un album del 2013, ci sono 14 tracce, tutti strumentali, che comprendono pianoforte, archi, percussioni, elettronica, e l'orchestra che suona è quella dei Virtuosi Italiani e rappresenta un punto di svolta nella luminosa carriera dello schivo, appunto musicista torinese, ed è stata concepita in una casa di campagna nelle Langhe in un arco di tempo a time lapse, come annunciato nel titolo dell'album, di 10 giorni, che ha evidentemente offerto a Einaudi la serenità e il raccoglimento necessario per comporre musica di altissimo livello, come sono le tracce una dopo l'altra e tutte di questo bellissimo album. Mi è tornato alla memoria This is England, dove Ludovico Einaudi è presente con più di una traccia, quindi... È vero. Sì, sì, è vero. Sì, ma sì. L'abbiamo fatta This is England? Come no, l'abbiamo fatta, sì. Non me lo ricordavo. Told me I'm not broken and I won't fade away. Does anybody feel midnight is it worth the price you pay for playing the game? Don't fall. Don't Fall per The Real. Vi avevo avvertito. Io infatti vorrei sapere perché l'hai scelta questa. L'ho scelta perché il film è bello, perché le colonne sonore e poi sono importanti, perché si può parlare anche di film che magari passano inosservati, secondo me. Ok, che diciamo dei The Real? Dei Real niente, no? Che cosa devi dire? Essendo un vero pietoso e averli passati attraverso questa frequenza è già per loro molto importante, dovrebbero sentirsi molto felici. Senti, invece per no, ci voglio spiegare, ecco, so, spiegami questa, che secondo me ci sono anche dei pezzi belli che magari uno passa di meno e che volentieri uno lo risente. Ma a proposito della colonna sonora super cafona di questo film, voglio spiegarvi come la vede questo regista geniale, di cui vi consiglio di andarvi a vedere anche gli altri film se non l'avete già fatto. Allora, il film ruota su 5 brani, perché 5 sono le sequenze più importanti di questo film e sono non ve li dico, però vi dico che cosa ha detto a proposito della colonna sonora e della musica il regista di Mommy, Xavier Dolan. Per come lavoro io, la musica arriva presto, già nella fase di scrittura è comunque un'ispirazione, posso ascoltare una canzone alla radio e scriverci sopra un film. Ascolto sempre la musica mentre scrivo, che siano bravini che poi metto nel film o no. Per esempio, c'è un pezzo di Ludovico Einaudi intitolato Experience. Quando l'ho sentito mi ha ispirato una scena dove c'è una donna che immagina una vita che non ha mai vissuto, che non riuscirà mai a avere, ma in quel momento non sapevo ancora che sarebbe stato per Mommy. L'ho capito in seguito e ho scritto intorno a lei. Questo è una cosa che ho trovato in rete di questo che ha dichiarato questo regista a proposito della musica. E un'altra cosa bellissima che ha detto è questa: penso che l'uso della musica debba accompagnare il quotidiano dei personaggi principali senza che il regista dica questi sono i miei gusti musicali. No, sono dei personaggi che devono controllare la musica. Il personaggio di Steve, infatti, Antoine Olivier Pilon, Fede, che decide di ascoltare On Ne Change Pas di Céline Dion, quindi ma buon arriva pure questa, o Colorblind dei Counting Crows, è lui che ha premuto play seguendo la compilation che suo padre aveva preparato prima di morire. Penso sia importante utilizzare delle canzoni che possono piacere alle persone, ai personaggi, a me che sono cresciuto con la musica degli anni 90, canzoni che durante la proiezione possono risvegliare dei ricordi in sala a voi e a me, una sorta di comunicazione tra lo spettatore e il film, un'emozione che entra nella vita privata di chi guarda, a mia insaputa e fuori dal mio controllo, ma che contribuisce a dare uno stimolo emotivo alle scene a cui lo spettatore assiste. Sarah McLachlan, Building a Mystery, che è uno dei suoi brani, delle sue canzoni più conosciute. Stella del firmamento canadese, ho trovato io che è lei. Ok. Calcola che io la conoscevo e ce l'ho anche su tra le mie. No, non ci credo. Le che mi porto sempre appresso. Ma che vergogna, una sua, ma che fai, lo dici in giro? Una sua versione di Dear God degli XTC, pensa. Pensa un po', guarda, questo non l'avrei mai detto. Senti il nostro amico Xavier Don Lamasso, sono fomentatissima su di lui, poi vi racconto la biografia, un genio. Ma dici un po'. Adesso ti dico qualcos'altro del film che, su cui mi sono intrippata facendo le mie ricerche, che ha tante particolarità questo film, no? A parte la bravura di questi tre attori, perché sono tre gli attori, il Antoine Olivier Pilon, la madre che non mi ricordo adesso, mi sfugge il nome dell'attrice, e mo ve lo dico. La troveremo. Andor Val e Suzanne Clamont, che fa l'amica, la vicina di casa. Sono tre i personaggi, pensate, no? Un film con così poche, così intenso, così potente, per chi l'ha visto credo che non potrà contraddirmi, con soltanto tre protagonisti, ed è stato, ha tante particolarità, è perfetto in tutti i suoi aspetti, la sceneggiatura, la fotografia, altre cose poi vi dirò anche a proposito del direttore della fotografia che mi hanno colpito durante il film, ma la cosa, che la particolarità più grande di questo film è il formato che viene usato, Federico, da Xavier Dolan, lo ricordi? È un formato diverso da quelli, non è la prima volta che, insomma, che viene usato nel cinema, insomma è una cosa molto, molto originale, invece di usare il classico 4 terzi o 16 noni, lui usa un formato di dimensione 1:1 praticamente, cioè c'è una specie di quadrato in cui i personaggi non entrano mai in più di due, c'è sempre un'inquadratura alla volta, e raccolto da due bande laterali nere. In questo suo modo di girare il film, con questo tipo di inquadratura, mette proprio, sottolinea l'ansia della storia, e è un formato scelto per creare ansia e soggezione a chi lo sta guardando al cinema, agli spettatori, perché ti mette proprio ansia queste immagini così spiaccicate, però di fronte a te, enormi, però uniche nella loro fisicità. Quindi è un'altezza leggermente maggiore della larghezza, con delle sequenze che sembrano quasi delle fototessere, quelle tessere, le fototessere, mm-hmm, sembra di guardare. Sì. E poi mi ha evocato angoscia a me personalmente, perché no, c'è sempre, appunto, dicevo, soltanto uno dei protagonisti all'interno, si riunisce, si ingrandisce questo formato soltanto in pochissime occasioni del film, in cui i tre sono tutti e tre insieme. Passiamo direttamente alla prossima, io la dedico al mio amore. Va bene. Juste les costumes d'autres sur soi. On ne change pas. Une veste ne cache qu'un peu de ce qu'on voit. On ne grandit pas. On pousse un peu tout juste le temps de rêver d'un songe. Il est touché du doigt, mais on n'oublie pas. Presque nul est instant d'innocence. Quand on ne savait pas, on ne change pas. On attrape des ailes et des poses de combat. On ne change pas. On se donne le change, on croit que l'on fait les choix. Mais c'est une crainte. On sait bien qu'il est là, plus qu'un instant de soir. On ne change pas Céline Dion. Céline Dion, che c'è da dire di Céline Dion? Che c'è da dire? Diccelo un po'. Niente. Niente? Insomma, si sa tutto, no? Successo planetario. Di qua e di là. Di qua e di là. Insomma, la so persa poi. Peggio. Allora, di due cose tu. Io su Céline Dion, ma... sì, eccola, l'ho trovata. Non mi vuoi bene. Trovata. Allora, questa è una delle tracce principali del film. Attenzione. Che viene inserita durante la serata in cui i tre protagonisti si lasciano un po' andare insieme e cantano un po' senza preoccupazioni, uno dei pochi momenti meno angosciati del film, in cui la inquadratura uno a uno viene sostituita da un'inquadratura un po' più larga e lo povero spettatore che sta intanto sulla sedia senza respiro ricomincia un attimo a respirare. E niente, no, questo è un brano che fa parte di una greatest hits della Dion, che si intitola proprio On Ne Change Pas, e raccoglie 25 brani di tutto, che ripercorrono tutta la sua carriera. È pubblicato nel 2005, è stata la compilation più venduta e il settimo album più venduto della Francia, 600.000 copie soltanto nelle prime due settimane. E poi è brava Céline, ma poi niente, beh, insomma, la sai com'è lei, no? È diventata molto famosa dopo il cartone, dopo che ha cantato, è stata la voce nel cartone animato di La Bella e la Bestia. Ah no, io non la conosco. E poi è per successo planetario, però è arrivato nel 1997 con My Heart Will Go On, tema del film Titanic. Ah beh, che viene incisa sull'album Let's Talk About Love. E poi mi ha colpito questa cosa di Céline Dion, che lei ha fatto uno spettacolo dal vivo a Las Vegas. Ha fatto costruire per lei, l'ha voluto lei costruire, gliel'hanno costruito giustamente, insomma, Céline Dion, no? mica una qualsiasi, un teatro da 4.000 posti. E ha fatto uno show che è stato replicato per 600 date nell'arco di 3 anni. Te quasi rendi conto? Sa che treno, eh? Beh, pure lei è un bel impegno. Face Back, una traccia lampo che in genere era accompagnata da un'altra, quindi uscito... è una sorta di preludio questo. Sì, 2014 è uscito questo album da cui è tratta, per la Capitol, Morning Face si chiama. Ci sono dei suoi dischi, tutto in studio. È stato, i critici l'hanno definito album da meditazione. 47 minuti di brani interamente acustici e lenti con rarissimi inserti elettrici. Invece, per quanto riguarda sempre il nostro le caratteristiche tecniche di questo film, oltre appunto alla particolare formato usato, c'è anche una fotografia molto, molto bella, curata dal direttore della fotografia, che si chiama André Turpin, e il quale fa una cosa incredibile, perché fotografa questo Canada in un modo quasi apocalittico, cioè sembra quasi di stare ai Caraibi in certi momenti, perché ci sono queste luci sparatissime, e in altri invece, nella parte degli interni, tracchete, di nuovo l'ansia. Tracchete. Di nuovo l'ansia, proprio l'angoscia, che viene fotografata attraverso dei colori, non so, vanno dal verde al giallo, oppure il rosso, il blu elettrico, veramente geniale. Diciamola un'altra cosa della fotografia, ecco, la cosa più importante è che c'è una scena in cui c'è un blackout, e lui fa un esperimento, questo direttore della fotografia, bravissimo, tutti i personaggi si muovono in una penombra bluastra, cioè ricostruisce un blackout attraverso la fotografia. Fighissimo. Gonna be the day that they're gonna throw it back to you. By now you should have somehow realized what you gotta do. I don't believe that anybody feels the way I do about you now. Backbeat, the word is on the street that the fire in your heart is out. I'm sure you've heard it all before, but you never really had. Wonderwall per gli Oasis, lo sai che ce li ho anche gli Oasis. Beh, quelli tre tracce, tutti, che non vuol questa, dire? Però, quella no. di prima no, questa Sarah no. McLaughlin, ma chi ce l'ha Sarah McLaughlin? Ma chi la conosce? Gli Oasis, certo, ce l'hanno tutti gli Oasis. Poi sto pezzo, Morning Glory, era il 1995 quando usciva questo album pazzesco degli Oasis, pazzesco, bellissimo, miliardi di copie, 346.000 copie soltanto nella settimana, nella prima settimana di messa in vendita, 14 dischi di platino, 16 milioni di dischi in tutto il mondo. Ecco. E subito dopo, l'anno dopo, hanno fatto un super concerto gli Oasis, il 10 e l'11 agosto del 1996 a New World Fair, che è un posto famosissimo, scoperto, dove hanno suonato un sacco di persone, ma Van Morrison, gli Allman Brothers, e pure i Queen, e hanno fatto questo concerto bella per loro, per fare l'album, proprio per l'album, 250.000 spettatori. Lo spettacolo ad oggi si tratta dello spettacolo con più richieste in assoluto nella storia della Gran Bretagna. Infatti furono ben 2,5 milioni le persone che cercarono inutilmente di acquistare un biglietto per l'evento. Capito, sì? Gli Oasis. E questa è storia. E queste cose sono importanti da sapere. E poi dice che pure che Noel Gallagher dice che è nauseato, che è nauseato da Wonderwall. Che non ce la fa più. Non la segue più. Non le segue più perché non ne può più. Non ne può. E poi invece inizio a raccontarvi un po' della nostro, del mio amato. Oh. Xavier Dolan. Veramente mi sono incaponita oggi su questa questo film. Hai lavorato bene. No, ma ecco, comunque guarda che poi alla fine ti sei lamentato tanto dalla colonna sonora, ma non mi sembra così brutta fino adesso. È tanto mi sono lamentato. Pochetto. No. Ah, è orecchiabile. Sì, no, ma è... No? Non è malato. Io alcune tracce le ho scelte. E allora, Xavier Dolan, canadese, nato a Montreal nel 1989, pensate quanto è piccolo, è giovanissimo. Non solo è un regista, ma è anche sceneggiatore, attore, doppiatore, produttore. In questo film ha fatto tutto, pure il montaggio, tranne la fotografia, ha curato tutto lui in questo Mommy. Spinto dal padre, inizia la sua carriera all'età di 4 anni partecipando a una ventina di spot pubblicitari e lavora nel campo del doppiaggio. Ha all'attivo 150 film. A 25 anni, caro Fede, mentre tu non facevi niente a 25 anni, andavi ai rave a ballare, lui sai che faceva? Sì. Già tutto questo. Perché ma i 150 aveva... film che sono? No, vabbè, come doppiatore. Ah, come doppiatore. E a 25 anni, mentre tu andavi ai rave, come ti dicevo, faceva già tutto questo. Cioè, il suo primo lavoro, realizzato all'età di 20 anni con l'autobiografico J'ai tué ma mère, basato sulla sceneggiatura Matricide da lui scritta quando ne aveva 17, sì. E trattava del difficile rapporto di un ragazzo omosessuale con sua madre. Dopo numerosi problemi di produzione, il film trova la luce e viene selezionato per la 41esima edizione del Festival di Cannes, vincendo numerosi premi e balzato alla notorietà. Sapeva bene come dirigere gli attori, come costruire un set, dare un'aria al suo film, usare il rallenting con la sonore, eppure giocare con i formati della pellicola. Questo grazie a un istinto naturale rapidamente diventa famosissimo, ma ecco, nel 2010 con Les Amours Imaginaires, il suo secondo lungometraggio, un lavoro fatto in soli 25 giorni a Montreal, e nel quale Dolan investe tutto se stesso, anche da un punto di vista lavorativo, visto che è insieme regista, produttore, eccetera eccetera. La pellicola viene presentata al Festival di Cannes e, malgrado quello che una miope critica italiana affermi giudicando l'opera non sufficiente, incontra il favore del pubblico e una critica straniera entusiasta. Nel 2011 inizia le riprese del suo terzo lungometraggio, Lawrence On Anyways, una storia drammatica che racconta le vicende romantiche fra un transgender e sua moglie nel 1990. L'ho visto. Bello. Il film viene selezionato di nuovo al Festival di Cannes, portando un altro risultato mozzafiato. Da allora qual è il risultato mozzafiato? Che è diventato famosissimo, famosissimo in Francia, okay, in tutto il mondo. In Francia non si parlava praticamente che di lui, almeno nel... Xavier di là. E poi segue Thomas La Ferme, tratto da uno spettacolo teatrale di Michel Bourbruchat. L'opera viene presentata al Festival di Venezia del 2013 e ottiene il premio Fipresci. Quinto e grandissimo passo in avanti nella sua filmografia è Mommy, Nel 2013 ha diretto il videoclip di cui ti dicevo prima, College Boy, per la band Indochine, nella quale c'è l'attore di Mommy Antoine Olivier Pilon, in cui viene picchiato e umiliato dai suoi compagni di scuola. Il video musicale va incontro a un divieto di censura per i minori, però il regista difende la sua scelta artistica spiegando che la violenza mostrata nel video non è gratuita ma è un atto di denuncia, e torna a Cannes nel 2016 per presentare l'ultima sua fatica, che è It's Only the End of the World, che racconta la storia di uno scrittore che torna a casa dopo 12 anni di assenza per annunciare la sua imminente morte. Credo che stia per uscire in Italia? Non lo so, non so. Gli... Secondo me sta per uscire, sta lì. Non so, così informato. Ma divieto e censura, no, divieto di censura. De quella cosa del, sì, del video, del mi video. Stai chiedendo. Divieto e censura, sì, sicuramente. Sì. Ok. E poi adesso sta lavorando a un altro film, sì, il settimo, The Death and Life of John F. Donovan, che, di cui dice: la prima volta che l'ho letto non sono riuscito ad andare oltre le prime pagine, 5 anni dopo ho ripreso in mano il testo e all'improvviso l'ho amato, i personaggi non fanno altro che parlare, il problema è che dicono tutto tranne quello che conta, come ti voglio bene o ti odio. Childhood per Craig Armstrong. Ah sì, mi ero distratta. Sì, stavo pensando altro. Sì, Craig Armstrong ti ha fatto sognare. Sì, sì, mi ero proprio persa in questa sonorità. Chi è? 1987-81 ha studiato composizione e pianoforte al Royal Academy of Music di Londra, ha fatto Brass a Glasgow dove ha scritto le musiche di numerosi film vincendo diversi premi, collaborazioni di musiche elettroniche molto raffinate, tante colonne sonore, quella di Baz Luhrmann per Moulin Rouge, Romeo e Giulietta, quella di Un americano tranquillo, World Trade Center di Oliver Stone, Ray, il film su Ray Charles, ha vinto tanti premi importantissimi anche per il Grande Gatsby, Snowden e tantissimi altri film, e ha rivolato con tantissimi artisti come U2, Madonna, Pavarotti eccetera, ma questo album nasce da un sodalizio con i Massive Attack, infatti nel 1998 li incontra, diventano amici, collaboratori e gli offrono la propria etichetta discografica, la Melancholic, per pubblicare questo album dal titolo del 1998 appunto, The Space Between Us, ed è considerato dai critici un'enciclopedia di emozioni evocate, non solo perché è un lavoro arricchito da diverse sonorità, ma anche perché in questo lavoro Armstrong fa un vasto uso di strumenti musicali, pianoforte, arpa, violini, violoncelli, sintetizzatori, percussori, flauti, clarinetti, eccetera eccetera, che creano emozioni diverse a seconda del brano che si sta ascoltando. Siamo ai saluti. Ci sentiamo giovedì prossimo, sempre dalle 15 alle 16. Ci lasciamo, i riferimenti sono Tracce di Cinema, @andarossa.info per la posta elettronica, per le frequenze 87.9, in streaming anche dal sito internet della radio. Ricordatevi di sostenere Radio Onda Rossa, esatto, attraverso il conto corrente postale 61804001, intestato alla Cooperativa Culturale Laboratorio 2001, via di Volci 56, Roma. E ci lasciamo con Dido White Flag. E questa la dedico anche ancora al mio amore. Oh. like above my door. I'm in love and always will be.